Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario del dottor Seward, 18 settembre. Partito immediatamente per Hillingham, dove sono arrivato presto. Lasciando la carrozza davanti al cancello, ho percorso il viale. Ho bussato leggermente e ho suonato il campanello piano piano per timore di disturbare Lucy o sua madre, con la speranza che alla porta venisse una domestica. Dopo un po', non avendo risposta, ho bussato e suonato di nuovo, ma mai venuto in mente. Ho maledetto la pigrizia delle cameriere che se ne stavano ancora a letto a quell'ora, erano ormai le 10, e ho ricominciato a bussare e a suonare, ma con maggiore impazienza. Ancora nessuna risposta. Fino a quel momento avevo dato la colpa alle donne di servizio, ma a questo punto sono stato preso da una tremenda paura. Che questa desolazione fosse un altro anello della catena di disastri che sembra stringersi intorno a noi, che fosse davvero una casa di morte, quella a cui ero giunto troppo tardi. Sapevo che minuti, perfino secondi di ritardo potevano significare ore di pericolo per Lucy se avesse avuto di nuovo una delle sue spaventose ricadute, e ho fatto il giro della casa per cercare di trovare qualche altro modo di introdurmi, ma non ne ho scoperto alcuno. Tutte le porte e le finestre erano chiuse e sbarrate, quindi sono ritornato sotto il portico, deluso. In quel momento ho sentito il rumore scalpitante degli zoccoli di un cavallo in corsa che si è fermato al cancello. Pochi secondi dopo Van Helsing correva sul viale. Appena mi ha visto mi ha domandato, ansimando: «Allora, siete voi? È arrivato adesso. Come sta? Siamo forse in ritardo? L'avete ricevuto? Il mio telegramma?» Gli ho risposto con tutta la rapidità e la coerenza possibili che il telegramma mi era giunto soltanto alla mattina presto, e che non avevo perso un minuto per precipitarmi a Hillingham, ma non riuscivo a farmi sentire da nessuno in casa. Van Helsing si è fermato e, togliendosi il cappello, ha detto in tono solenne: «Temo che sia troppo tardi allora. Volontà di Dio sia fatta». Ma poi, con la sua solita capacità di ripresa, ha continuato: «Venite, se non c'è via aperta per entrare, noi dobbiamo fare questa via. Per noi il tempo è tutto, adesso». Siamo andati sul retro della casa, dove c'era la finestra della cucina. Il professore ha tolto dalla sua borsa una piccola sega chirurgica e me l'ha data, indicandomi le sbarre di ferro che proteggevano la finestra. Mi sono messo subito all'opera e in poco tempo ne ho segate 3. Poi, con un coltello lungo e sottile, abbiamo spinto indietro il chiavistello del telaio e aperto la finestra. Ho aiutato il professore a introdursi nell'interno e l'ho seguito. Non c'era nessuno in cucina né nelle adiacenti stanze della servitù. Abbiamo cercato in tutte le camere finché nella sala da pranzo, fiocamente illuminata dai raggi di luce che filtravano attraverso le imposte, abbiamo trovato le 4 domestiche abbandonate sul pavimento. Non abbiamo stentato a capire che non erano morte, perché la loro respirazione rumorosa e l'odore acre del laudano di cui la sala era pervasa non lasciavano dubbi sulle loro condizioni. Van Helsing e io ci siamo guardati in faccia, e mentre ci allontanavamo il professore ha detto: «Di loro ci occuperemo in seguito». E siamo saliti nella camera di Lucy. Ci siamo fermati un momento o due dietro la porta ad ascoltare, ma non abbiamo sentito alcun rumore. I volti pallidi e le mani tremanti. Abbiamo aperto con delicatezza la porta e siamo entrati. Come descrivere quello che abbiamo visto? Sul letto giacevano 2 donne, Lucy e sua madre. Quest'ultima, dalla parte verso il muro, era coperta da un lenzuolo bianco, ma la corrente d'aria che entrava dalla finestra rotta ne aveva scostato un lembo e il suo volto bianco, consunto e improntato a un'espressione di spavento, era visibile. Al suo fianco era distesa Lucy, il viso cereo e ancora più tirato. I fiori che avrebbe dovuto tenere intorno al collo li abbiamo trovati sul petto della madre. La sua gola era scoperta e si vedevano le due minuscole ferite da noi già osservate in precedenza, ma che si presentavano orrendamente bianche e corrose. Senza una parola il professore si è chinato sul letto, quasi a sfiorare con il capo il seno della povera Lucy. Ha girato la testa come per ascoltare e poi mi ha gridato, balzando in piedi: «Non è troppo tardi! Presto! Presto! Brandy!» Sono corso giù di volata per tornare con il brandy, dopo essermi preso la cura di annusarlo e assaggiarlo, nel timore che potesse essere drogato anche questo, come la caraffa di sherry che avevo trovato sulla tavola. Le domestiche, pur respirando ancora pesantemente, erano meno immobili, e io ho immaginato che l'effetto del narcotico cominciasse a esaurirsi. Senza tuttavia fermarmi ad accertarmene, sono ritornato da Van Helsing, il quale, come nell'altra occasione, ha strofinato il brandy sulle labbra e sulle gengive di Lucy, poi sui polsi e sulle palme delle mani. Intanto mi diceva: «Io posso far questo. Più non posso fare al momento. Voi andate a svegliare quelle ragazze. Sbattete su loro faccia, asciugamano bagnato e sbattete, forte! Fate che preparano caldo e fuoco e bagno caldo. Questa povera creatura è gelata, quasi come altra vicina a lei. Bisogna di essere riscaldata prima che possiamo fare altre cose». Io sono andato giù immediatamente e non ho stentato molto a svegliare tre delle donne. La quarta era una ragazza giovanissima e la droga le aveva fatto evidentemente un maggiore effetto, quindi l'ho messa su un divano e l'ho lasciata dormire. Le altre, stordite sulle prime con il riaffiorare del ricordo, hanno cominciato a piangere e a singhiozzare istericamente. Ma io sono stato duro e non ho permesso loro di perdersi in querimonie. Ho detto che una morte era già anche troppo e che se avessero perso tempo, anche la signorina Lucy sarebbe stata sacrificata. Allora le donne, gemendo e piangendo, si sono messe all'opera mezze svestite come erano e hanno preparato fuoco e acqua. Per fortuna i fuochi della cucina e lo scaldabagno non erano spenti e l'acqua calda non mancava. Abbiamo preparato un bagno e vi abbiamo immerso Lucy così come si trovava. Ci siamo accorti che il calore cominciava a fare un certo effetto. Il cuore di Lucy sotto lo stetoscopio batteva in un modo più percepibile e il movimento dei suoi polmoni era più evidente. Il viso quasi raggiante, Van Helsing ha detto, mentre la traevamo dalla vasca e la avvolgevamo in un lenzuolo caldo per asciugarla: «La prima partita è nostra. Scacco a re!» La sala era in penombra ma sufficientemente illuminata per i nostri bisogni. Sul volto di Van Helsing la rigidezza era in un certo senso temperata da un'espressione di perplessità. Evidentemente si stava lambicando il cervello a proposito di qualcosa e io ho aspettato. Dopo un attimo ha parlato. «Che cosa noi dobbiamo fare? A chi ci rivolgiamo per aiuto? Dobbiamo avere altra trasfusione di sangue e presto. O vita di quella povera ragazza non vale un'ora. Voi siete già esausto e anche io sono esausto. Ho paura di fidarmi di quelle donne, anche se hanno il coraggio di accettare. Come trovare qualcuno che apre sue vene per lei? Non ci sono io, in ogni modo». La voce veniva dal divano in fondo alla sala, e nel riconoscere l'intonazione ho provato gioia e sollievo, perché era quella di Quincy Morris. Il viso di Van Helsing, che aveva avuto un sussulto di irritazione al primo momento, si è addolcito e il suo sguardo si è illuminato nel sentirmi esclamare «Quincy Morris!» e nel vedermi correre verso di lui a braccia aperte. «Che cosa ti porta qui?» gli ho domandato mentre ci stringevamo la mano. «Si tratta di un messaggio di Art e mi ha teso un telegramma. Privo di notizie di Seward da 3 giorni, terribilmente in ansia. Impossibile partire. Papà sempre nelle stesse condizioni. Mandami al più presto notizie di Lucy. Holmwood». «Penso di essere arrivato al momento opportuno. Non avete che da dirmi che cosa devo fare?» Van Helsing si è fatto avanti a stringergli la mano e nel guardarlo dritto negli occhi ha detto: «Sangue di uomo coraggioso è cosa migliore del mondo quando una donna è in difficoltà. Voi siete un uomo. Niente errore su questo. Ebbene, se diavolo lavora contro noi con tutte le sue forze, Dio manda a noi uomini quando abbiamo bisogno di uomini. Ancora una volta abbiamo intrapreso la terribile operazione e io non ho il coraggio di riferirne tutti i particolari. Diario del dottor Seward, 20 settembre. Lucy stava sdraiata immobile e io ho esaminato con gli occhi la stanza per assicurarmi che tutto fosse in ordine. Ho constatato così che il professore aveva messo in atto in questa camera come nell'altra il suo proposito di utilizzare l'aglio. Gli infissi della finestra puzzavano e intorno al collo di Lucy, sopra il fazzoletto di seta messole da Van Helsing, c'era un rozzo rosario fatto con gli stessi fetidi fiori. Il respiro di Lucy era un po' rantolante e il suo viso non era gradevole a vedersi perché la bocca aperta metteva in mostra le pallide gengive. In quel fioco chiarore i denti sembravano più lunghi e acuminati di quanto mi erano parsi al mattino. E per uno strano gioco di luci erano in particolare i canini a essere più in evidenza. Mi sono seduto vicino al letto e poco dopo Lucy si è mossa, inquieta. Nello stesso momento ho sentito venire dalla finestra un rumore sordo, come un battito. Mi sono avvicinato per guardare fuori, scostando un lembo della tenda. Era plenilunio e ho visto che il rumore era provocato da un grosso pipistrello. Volteggiando in giro, probabilmente attratto dalla luce per quanto debole, ogni tanto andava a sbattere le ali contro la finestra. Di ritorno sulla mia sedia ho notato che Lucy si era mossa leggermente e si era tolta dalla gola i fiori di aglio. Li ho rimessi a posto come meglio potevo e sono rimasto a osservarla. Quando poco dopo si è svegliata, le ho dato un po' di cibo come aveva prescritto Van Helsing, ma ne ha preso pochissimo e svogliatamente. Sembrava che in lei si fosse spento quell'inconscio desiderio di vivere di cui aveva dato chiari segni durante la sua malattia e avesse perduto la forza di lottare. Mi ha colpito un particolare curioso. Quando ha ripreso coscienza, si è stretta contro il petto i fiori di aglio. Certo era molto strano il fatto che quando cadeva nello stato letargico, caratterizzato dal respiro rantolante, allontanasse da sé i fiori, mentre ogni volta che si destava se li premeva addosso. Di questo non c'era da dubitare perché nelle lunghe ore successive i periodi di sonno e di veglia si sono alternati spesso e Lucy ha seguitato a ripetere gli stessi gesti. Alle 6 Van Helsing è venuto a darmi il cambio. Arthur si era assopito e il professore misericordiosamente l'aveva lasciato dormire. Nel vedere il viso di Lucy ha aspirato il fiato sibilando, come al solito. Poi mi ha bisbigliato seccamente. «Aprite le tende! Ho bisogno di luce!» Si è chinato su di lei e quasi sfiorandola con la sua faccia, l'ha esaminata con cura. Ha tolto i fiori e ha sollevato il fazzoletto di seta dalla gola e l'ho sentito esclamare con voce soffocata mentre balzava indietro. «Mein Gott!» Io mi sono piegato a mia volta e mi sono sentito percorrere da uno strano brivido. Le ferite sulla gola erano completamente scomparse. Per 5 interi minuti Van Helsing è rimasto a guardarla, il viso più che mai impietrito. Poi, volgendosi verso di me, ha detto con calma: «Sta morendo. Non ci vorrà molto, ormai, e sarà grande differenza, credete a me, se muore cosciente o in suo sonno. Svegliate quel ragazzo. Fatelo venire a vedere lei, per ultima volta. Lui si fida di noi e noi a lui abbiamo promesso.» Sono andato nella sala da pranzo a svegliare Arthur. Per un attimo è stato intontito, ma quando ha visto la luce del sole filtrare attraverso gli interstizi delle imposte, ha pensato di essere in ritardo e mi ha espresso i suoi timori. Gli ho assicurato che Lucy era sempre addormentata. Ma poi gli ho detto con tutto il garbo possibile che sia Van Helsing, sia io, temevamo una prossima fine. Arthur si è coperto il volto con le mani ed è scivolato in ginocchio accanto al divano, dove è rimasto forse per un minuto, a pregare, la testa nascosta, le spalle scosse dai singhiozzi. Io gli ho preso una mano e l'ho sollevato. Andiamo, mio povero caro amico. Raccogli tutte le tue forze. Sarà meglio. È più facile anche per lei. Allora Arthur le ha preso una mano e si è inginocchiato accanto a lei. Lucy era bellissima. I delicati tratti in armonia con l'angelico splendore dei suoi occhi. Poi a poco ha abbassato le palpebre ed è sprofondata nel sonno. Per breve tempo il suo petto si è mosso ritmicamente, con dolcezza, e il suo respiro pareva quello di una bambina stanca. Poi, insensibilmente, si è verificato lo strano mutamento che avevo osservato durante la notte. Il suo respiro si è fatto rantolante, ha aperto la bocca e le pallide gengive rattrappite hanno messo in mostra denti che apparivano più lunghi e acuminati che mai. In una specie di vago, incosciente dormiveglia, essa ha aperto gli occhi, che erano diventati opachi e duri al tempo stesso, e ha detto con una voce morbida e voluttuosa che non avevo mai sentito sulle sue labbra: Arthur, oh amore mio, sono così felice che tu sia venuto. Baciami. Arthur si piegava con ardore su di lei per baciarla quando Van Helsing, il quale come me era rimasto sbalordito dal suo tono di voce, gli si è lanciato addosso, l'ha preso per il collo con tutte e due le mani e lo ha tirato indietro con una forza violenta che non avrei sospettato in lui, buttandolo letteralmente dall'altra parte della stanza. «No, per vostra vita!» ha esclamato. «No, per vostra anima e anima di lei!» E si è messo fra i due come un leone sulla difensiva. Arthur era stato preso talmente alla sprovvista che per un momento è rimasto interdetto, senza sapere che cosa dire o che cosa fare. Ma prima di cedere a un impulso di furia si è reso conto del luogo e della circostanza e ha taciuto aspettando. Io non perdevo d'occhio Lucy e lo stesso faceva il professore. Così abbiamo visto entrambi una contrazione di rabbia passarle come un'ombra sul viso e i denti acuminati cozzare insieme. Poi Lucy ha chiuso gli occhi e il suo respiro era pesante. Ma poco dopo li ha riaperti e avevano ritrovato tutta la loro dolcezza. Ha allungato la sua povera, fragile mano esangue. Ha preso la mano bruna e forte di Van Helsing e se l'è portata alle labbra. «Mio vero amico», ha sussurrato con voce flebile ma con un pathos indicibile. «Mio vero amico e vero amico suo. Oh, abbiate cura di lui e dategli serenità». «Lo giuro», ha detto Van Helsing con gravità, inginocchiandosi accanto a lei e sollevando una mano come se pronunziasse un voto solenne. Poi, rivolto ad Arthur, gli ha detto: «Finite, ragazzo mio. Prendete sua mano nelle vostre e baciatela sulla fronte una sola volta». Invece delle labbra si sono incontrati i loro occhi. Così essi si sono separati. Lucy ha chiuso gli occhi e Van Helsing, che aveva sorvegliato da vicino, ha preso un braccio di Arthur e l'ha tirato indietro. Il respiro di Lucy si è fatto di nuovo rantolante ed un tratto è cessato. «È tutto finito», ha detto Van Helsing. «Essa è morta». Io ho preso un braccio di Arthur e l'ho condotto nella sala dove si è seduto, e il volto nascosto tra le mani si è messo a singhiozzare in un modo che mi spezzava il cuore. Sono tornato nella camera da letto e ho trovato Van Helsing che fissava la povera Lucy, il viso più che mai rigido. Il cadavere mostrava qualche cambiamento. La morte aveva restituito a Lucy parte della sua bellezza. La fronte e le gote avevano ripreso qualcosa delle loro linee armoniose. Perfino le labbra non erano più tanto pallide. Era come se il sangue, non più necessario per l'attività cardiaca, contribuisse a rendere meno aspra la crudeltà della morte. Credevamo che morisse mentre dormiva e che dormisse mentre moriva. in piedi al fianco di Van Helsing, ho detto: «Ebbene, povera ragazza, finalmente avrà pace. È finita ormai». Ma Van Helsing si è voltato verso di me per dirmi con estrema gravità: «No, non è così, purtroppo. Non è così. Questo è solo l'inizio». Quando gli ho chiesto che cosa intendesse dire, si è limitato a scrollare il capo rispondendomi: «Per il momento noi nulla possiamo fare. Aspettare e vedere».